Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e soprattutto ancora buon anno, tanti auguri a tutti da parte di Magazine 24, la nostra rubrica dedicata alla lettura dei settimanali, dei mensili italiani e non solo italiani, tutta quella stampa che ci può fornire delle opportunità per pensare, cose da leggere, cose su cui riflettere. Oggi è una puntata un po' particolare, il 2 di gennaio, l'anno è appena iniziato, quindi è diciamo pieno di promesse un po' per tutti, di prospettive che ci auguriamo le migliori possibili, e allora noi vogliamo cominciare con un magazine un po' particolare, lo premetto, un magazine che non abbiamo mai avuto occasione di leggere in queste puntate di Magazine 24, ed è Astra. Astra è, come sapete, un mensile dedicato agli oroscopi. Io non vorrei occuparmi naturalmente dell'oroscopo segno per segno, cosa sulla quale lascio ognuno libero di decidere se crederci o meno, o se giocarci in questo periodo. È molto facile anche divertirsi a vedere quali possono essere le previsioni per l'anno nuovo. Però è interessante vedere che nel numero che Astra ha mandato in edicola proprio negli ultimi giorni dell'anno appena concluso, c'è una serie di previsioni fatte da un'astrologa sulla condizione economica e sul mondo in generale. Franca Mazzei è una esperta di astrologia mondiale, così viene definita, appunto si è sforzata di individuare sulla base delle presunte influenze dei pianeti quali potranno essere le evoluzioni delle umane cose in un senso molto molto generale. Vi leggo qualche brano per farvi capire. Ci potrebbe essere una ripresa dell'economia e dell'occupazione, questo sarebbe appunto da legare alla congiunzione tra due pianeti, Giove e Urano, quindi una possibile ripresa dell'economia e dell'occupazione, che è una bellissima previsione, l'auguriamo senz'altro, quindi una eventualità che una nuova tecnologia decolli, questo avverte la Franca Mazzei su Astra. L'ultima volta, segnala, che abbiamo avuto questo tipo di posizionamento degli astri di Giove e Urano, insomma, è stato nel 1927. Cosa è successo nel 27? C'è stata la prima trasmissione via cavo con riprese dal vivo tra New York e Washington. Il 20 maggio del 27, ancora del 1927, Lindbergh fece il suo primo volo in solitaria. Quindi si può pensare appunto a una nuova tecnologia, a qualche frontiera tecnologica che cade. Questo è l'augurio della Mazzei. Nel tema della Repubblica Italiana è un'altra delle previsioni che vado a pescare tra le varie che vengono fatte su Astra. Nel tema della Repubblica Italiana, tra l'altro per chi è cultore delle questioni, la Repubblica Italiana è gemelli con ascendente in Scorpione, i transiti, cioè le posizioni dei pianeti, parlano di una possibile ripresa economica nel secondo semestre del 2010, favorito un nuovo gruppo politico, e invece si preannuncia una fase critica per il governo o un uomo politico di spicco. Questa mi pare una previsione un po' più generica. Speriamo che la previsione sia azzeccatissima, anzi approssimata per difetto, quando si dice di una possibile ripresa economica nel 2010, magari non nel secondo semestre ma anche prima. E con questo la parte astrologica di Magazine 24 si conclude. Torniamo invece alle altre profezie che abbiamo trovato nei settimanali, nei mensili degli ultime settimane, degli ultimi giorni, proprio su quello che potrebbe riservarci il 2010. Ad esempio su Focus è stato fatto un lavoro molto curioso, molto interessante, la cosiddetta tecnospesa, cioè fare la spesa è un gesto che sta cambiando molto, o che la tecnologia sta cambiando molto, già con delle cose che succedono o che vedremo succedere proprio nel 2010. Ad esempio, un navigatore del tipo di quelli che si montano sulle automobili, sul carrello. Varie società, spiega Focus, hanno già sviluppato un computer da carrello. Questo computer, inserendo una card personale, non solo ricorda la lista della spesa fatta la settimana precedente, o magari una lista ideale che è stata stilata da ognuno di noi, ma guida ai prodotti consigliando il percorso più breve tra gli scaffali del supermercato, quindi un po' un'applicazione analoga a quello che fa il navigatore dell'automobile. Gli esperti prevedono che il navigatore da carrello comincerà a essere adottato dai supermercati italiani già nel corso del 2010, quindi una prima profezia sulla tecnospesa. Un'altra cosa che dovremmo vedere nel 2010, in quest'anno appena iniziato nel nostro modo di fare la spesa, è la bilancia intelligente. Tutti sappiamo che pesare i prodotti sciolti, come ad esempio frutta e verdura, richiede un po' di impegno, perché la bilancia non riconosce normalmente il prodotto che abbiamo scelto, bisogna segnalarglielo ricordando spesso un numero, e poi c'è naturalmente sempre il rischio che qualcuno abbia la tentazione di inserire un numero corrispondente a un prodotto di minor costo. Allora, che cosa si pensa di fare? Nel 2010 ci si attende l'installazione di bilance capaci di distinguere da sole la frutta e la verdura, e quindi di limitarsi a segnalare il peso e restituirci il prezzo che dobbiamo pagare, senza bisogno da parte nostra di indicare materialmente quale codice ci serve. Un'altra cosa che potremmo fare, forse in qualche caso possiamo già fare, in qualche città italiana abbiamo già visto delle applicazioni alla fine del 2009, è pagare con il cellulare, perché sono già sul mercato dei cellulari che incorporano un software che è in grado di parlare col terminale della cassa e di fare più o meno quello che fa una carta bancomat. Per pagare basta premere il tasto di invio. Se le spese che si stanno facendo superano i 20 euro, si richiede l'inserimento di un codice segreto. In pratica il telefonino diventa sempre più vicino al nostro portafoglio, anche direi sempre più invadente per il nostro portafoglio. Ancora da Focus, un'ultima cosa che vi segnalo e che abbiamo già cominciato a vedere applicata, ma non in Italia, bensì negli Stati Uniti, è lo specchio intelligente nei reparti di cosmetica. Cioè, piuttosto che dover materialmente provare un certo rossetto o una certa crema, le signore potranno indicare il nome e la gradazione eventuale di questo prodotto allo specchio. Lo specchio, che ha una webcam, una telecamerina elettronica e un computer, riprodurrà la foto della cliente con il rossetto desiderato, quindi potrà subito vedere l'effetto che fa, come le sta quel prodotto e decidere se acquistarlo o meno. Questa tecnologia, avverte Focus, è già in fase di test nei supermercati Walmart, però negli Stati Uniti non l'abbiamo ancora vista in Italia. Infine, consigli via video, questo è una cosa che abbiamo cominciato a vedere in parte, dovrebbe essere sviluppata proprio quest'anno. Non sempre è facile orientarsi tra i prodotti, scrive Focus, a volte le offerte sono troppe, scegliere ci costa magari tempo e fatica, o c'è incertezza. Allora, una società francese ha creato un sistema di videoassistenza attraverso il quale il consumatore potrà mettersi in contatto con dei commessi o degli esperti che aiutano a capire qual è il prodotto con meno calorie o quello più adatto per chi soffre di allergie alimentari. Quindi applicazioni molto mirate per avere diciamo un acquisto assolutamente sicuro da parte del consumatore. Tutto questo dovrebbe succedere nei nostri supermercati, ci dovrebbe succedere al supermercato proprio nel corso del 2010. Tra le altre cose che dovremmo vedere, che potremo vedere nel 2010, c'è ed è attesa quantomeno la canonizzazione di Papa Giovanni Paolo II. Il Papa Wojtyła di recente, come sapete, nel dicembre scorso ha avuto il decreto che la Chiesa definisce di riconoscimento delle virtù eroiche, che è un primo passo per indicare appunto una persona fuori dal comune. Ecco, secondo una previsione, in questo caso fatta da Panorama nelle settimane scorse, Wojtyła sarà beato nel 2010. Il 16 ottobre ci sarà la cerimonia a San Pietro, ci sarà una nuova sepoltura dentro la Basilica. C'è già stata la richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per dare lo status di grande evento alla cerimonia di beatificazione sabato 16 ottobre del 2010, spiegando anche quali saranno le modalità appunto del trasferimento delle spoglie di Giovanni Paolo II. E poi per concludere decisamente il passaggio del Papa a Santo, si sta ancora ragionando su questo miracolo che gli viene attribuito e su cui la Chiesa sta finendo di indagare per poter appunto far elevare, come si dice, la gloria degli altari Giovanni Paolo II. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, la nostra rubrica dedicata alle notizie, agli articoli più interessanti usciti sulla stampa periodica nelle settimane scorse. Stiamo facendo un po' in questa particolare puntata di inizio anno un recupero delle varie previsioni, delle cose che ci attendiamo possano succedere nel corso del 2010. Allora, una cosa che attendiamo di vedere, che vedremo nel corso del 2010, c'è un altro film su Harry Potter. Questo non so quanti poi saranno felici di apprenderlo, quanti magari meno, però vi posso dire, l'ho tratto da Panorama, peraltro non l'ultimo numero uscito ma quello di qualche settimana fa, c'è in preparazione la trasformazione cinematografica del volume Harry Potter e i doni della morte. Il libro però, avverte Panorama, è troppo lungo per un solo film. Allora si è deciso che la prima parte uscirà nelle sale italiane nel novembre prossimo, quindi novembre 2010, mentre il gran finale di tutta la saga poi è atteso per il 2011. Qualche curiosità su questo film in preparazione: la prima parte, appunto, Harry Potter e Hermione si scambieranno il bacio più appassionato, dice Panorama, di tutta la saga. Tra l'altro i truccatori hanno in questo momento un grosso problema, perché stanno cercando come invecchiare i protagonisti, a cominciare da, appunto, da Harry Potter, Hermione, Ron e Draco Malfoy, perché nell'ultima scena dovranno dimostrare 36 anni, che non è poi un'età così bisognosa di invecchiamento, se non fosse per il fatto che gli stessi protagonisti hanno dovuto interpretare dei teenager, dei 16-17 anni o anche meno nelle serie precedenti di Harry Potter. Allora, quindi il 2010 ci porterà un nuovo film di Harry Potter, prima parte del film conclusivo di tutta la saga Harry Potter e i doni della morte. Lasciamo per un istante le previsioni, torniamo su qualche cosa che può aver caratterizzato molto il nostro comportamento invece delle settimane appena concluse, lo shopping, perché di shopping si è occupato Focus nel suo numero di gennaio, in distribuzione in realtà già da qualche giorno. Perché compriamo? Cioè, qual è la molla davvero che ci fa decidere se vogliamo o non vogliamo comprare qualcosa? Beh, non è semplicissima la risposta. L'articolo, c'è un lungo articolo appunto su Focus che ci parla dell'istinto dello shopping: emozioni, desideri profondi, comportamenti primordiali, ecco i meccanismi inconsapevoli che scattano quando facciamo compere. Ognuno poi ripensi alle compere fatte magari appena prima di Natale e potrà capire se qualche acquisto è stato fatto davvero d'impulso e qualche altro in modo più razionale. C'è naturalmente tutta una serie di indicazioni correlate allo status sociale, al significato sociale dell'oggetto che stiamo acquistando. Evidentemente una macchina sportiva dà di noi una certa immagine, fa pensare di noi alcune cose, un'utilitaria ne fa pensare delle altre, ma ci sono dei meccanismi più profondi che governano in realtà queste scelte. Ad esempio, una ricercatrice italiana, Michela Balconi, si è occupata non solo delle motivazioni sociali, della costruzione di identità che deriva dall'acquisto, ma di quello che succede proprio nel momento dell'acquisto. E ci sono stati degli scienziati che hanno analizzato cosa fa scegliere di comprare in questo momento, quello in cui appunto ci si riempie di prodotti che non si pensava di prendere o si cede davanti a un capo d'abbigliamento. Di fronte le tentazioni dello shopping, scrive Focus, oltre a un calcolo razionale entrano quindi in gioco altri fattori. Innanzitutto il puro piacere di comprare, perché pianificare un acquisto evidentemente dà piacere, e poi quando si compra e si possiede un oggetto si prova una soddisfazione momentanea che possiamo paragonare al piacere di mangiare un gelato. A livello cerebrale si attivano infatti aree legate alla soddisfazione dei bisogni e ai circuiti della ricompensa. E spiega appunto Michela Balconi, ci sono anche quelle persone che fanno shopping in modo compulsivo, cioè non riescono a fermarsi dall'acquistare, e vuol dire che in realtà stanno rinnovando questa forma particolare di piacere, ma non riescono a esercitare meccanismi di controllo. Qualche psicologo, in questo caso dagli Stati Uniti, George Lowenstein, si è occupato appunto degli aspetti invece più profondi ancora che possono scatenare l'acquisto. Lowenstein, che è di partenza un economista, vede una sorta di lotta, di confronto tra piacere dell'acquisto e dolore del pagamento. Si combatte, insomma, nel momento in cui si devono comprare, una lotta emotiva tra piacere dell'acquisto e dolore del pagamento. Le persone sperimentano un immediato dolore del pagamento quando spendono. La loro decisione però non dipende dalla scelta tra il piacere immediato e il piacere futuro che sarà derivato dall'uso alternativo di quel denaro, ovviamente l'oggetto che compriamo poi verrà da noi usato, ma da un'altra valutazione: se il piacere dell'acquisto compensa questo dolore del pagamento, e le persone differiscono per il grado con cui sperimentano tale sofferenza. Questo può spiegare perché ognuno di noi abbia una diversa tendenza a spendere. Chi soffre di più tende a non acquistare cose costose che alla fine non si godrebbe pensando al prezzo, quindi il dolore del pagamento supera il piacere dell'acquisto. Però il dolore della perdita, avverte Lowenstein, può essere in parte anestetizzato ricorrendo non fisicamente al denaro, ma a carte di credito o a uno dei nuovi metodi per pagare, magari il cellulare. E questo è uno dei motivi per cui viene più difficile tenere sotto controllo le spese fatte con le carte. Non ve lo leggo, ma vi rimando a Focus per i dettagli, ma sappiate che è stato fatto un esperimento proprio con dei volontari che hanno accettato di fissare dei prezzi o di decidere di simulare degli acquisti basandosi proprio su questa teoria, cioè il confronto tra quanto ci fa soffrire estrarre il portafoglio o la carta di credito e quanto pensiamo invece di essere soddisfatti dal possedere quell'oggetto che prima non avevamo. E si è visto come questa teoria abbia delle sue manifestazioni, delle sue dimostrazioni empiriche. E una cosa invece che non succederà più nel 2010 sarà la ricerca degli UFO da parte delle autorità inglesi. Non so quanti di voi ricordino di aver visto questa notizia nella parte finale del 2009, ma me l'ha ricordata un breve appunto comparso su 7 del Corriere della Sera. Chiude l'ufficio avvistamenti UFO della Gran Bretagna. Gli X-Files sono archiviati, scrive il Corriere, per mancanza di prove. Il Ministero della Difesa britannico ha deciso chiuderà il MOD Team, reparto ufficiale dedicato agli avvistamenti di UFO. Nel corso di 50 anni il dipartimento, si spiega, ha ricevuto 12.000 notizie di presunti avvistamenti, che però non hanno prodotto né prove dell'esistenza di vita extraterrestre né prove di qualsiasi minaccia per la Gran Bretagna. Così è stata chiusa la linea telefonica che era dedicata a queste segnalazioni, è stata disattivata la mail. Con i soldi risparmiati, alla fine era banalmente una questione di budget, come spesso accade agli stati per questo tipo di decisioni. I soldi risparmiati sono pari a 44.000 sterline l'anno, fanno più o meno 48.000 euro. Si incrementeranno invece i fondi per le missioni all'estero, missioni militari all'estero. Come sapete, la Gran Bretagna è impegnata ad esempio anche in Afghanistan. Nick Pope, che è alla guida del progetto UFO dal 91, che è stato alla guida, scusate, del progetto UFO dal 91 al 94, quindi nel secolo scorso, si è però dichiarato molto preoccupato: stiamo prestando il fianco ad attacchi. Questa la dichiarazione un po' preoccupante appunto di Pope, uno che ha guidato questo ufficio che ora Sua Maestà Britannica ha deciso di chiudere per far risparmiare e destinare in altro modo il denaro. Quindi gli inglesi non andranno più a caccia di UFO nel 2010. E già che stiamo parlando di extraterrestri, fantascienza e profezie varie, guardiamo anche oltre quest'anno che è appena iniziato, guardiamo al 2012. Perché? Perché Storica, nel suo numero di gennaio, si occupa anche di Maya, e occupandosi di Maya dedica un passaggio nel servizio di Mattia Muratori a questa profezia del 21 dicembre del 2012, data con la quale dovrebbe appunto quantomeno succedere qualche cataclisma di grossa portata o addirittura la fine del mondo. Dice Mattia Muratori, scrive: siamo sopravvissuti all'anno 1000, sopravvissuti al 2000, sopravviveremo anche al 2012. La terrificante profezia Maya, secondo cui il 21 dicembre 2012, giorno più giorno meno, dovrebbe finire il mondo, è infatti frutto di un grande equivoco, ingigantito dal business e indotto dalla profezia stessa, come per esempio il film che è arrivato nei mesi scorsi nei cinema. In realtà neanche i Maya, e questa è la parte più interessante dell'articolo di Storica, neanche i Maya credevano a questa presunta apocalisse, tant'è vero che ci sono delle tavolette dei calendari Maya che si riferiscono a date successive a questo 2012. Le paure, spiega qui Storica, nascono da un calendario in particolare in uso presso questa popolazione, che calcolava il tempo trascorso dal momento della creazione e andava avanti da una certa data, che era, secondo il nostro calendario, sarebbe stata l'11 agosto del 3114 avanti Cristo. In quel momento i Maya facevano cominciare il mondo, in realtà non lo facevano finire nel 2012, ma utilizzavano delle serie appunto di cicli ricorrenti di 144.000 giorni, oltre 394 anni, suddivisi poi in altri quattro sottocicli. Allora, che cosa succede alla fine il 21 dicembre 2012 secondo questo calcolo complesso del tempo che avevano fatto i Maya? Succede che si chiude il tredicesimo di questi grandi cicli di 394 anni e si comincia il quattordicesimo ciclo. Quindi aver timore della data, riassume Mattia Muratori nella sua conclusione su Storica, equivale a temere che un'auto si autodistrugga quando il contachilometri arriva a 99.999 chilometri. Questa è la spiegazione che danno appunto per farsi comprendere anche gli esperti di cultura Maya. Comunque, per gli irriducibili dell'Apocalisse è già pronta una nuova data per la fine del mondo. Pare infatti che ci sia in giro un calendario azteco che termina nell'anno 2027, ma di questo tipo di profezia avremo, penso, tempo di parlare in qualche altra puntata più lontana da questa. E si conclude così la prima puntata del 2010 di Magazine 24. Io ringrazio Paolo Corleoni che mi ha assistito in regia, ringrazio Vittoria Mussini e Emanuela Sicuro che anche nel 2010 sono accanto a me nel preparare questo programma. Do appuntamento a tutti voi sabato prossimo.